Gabriele Vasquez, buonasera, ben arrivato, come va? Tutto a posto. Sei un po' in ritardo. Ho delle ottime giustificazioni. Quali? Allora, sono reduce fresco fresco da una proiezione che è finita in ritardo. Non ha la giustificazione della mamma. E poi c'è un traffico nella città indicibile. Senza precedenti, lo so. Esatto. Tutto però questo ha fatto sì che io arrivassi in ritardo. Quindi perdiamo tempo. Che film sei andato a vedere? C'era un film incredibile di Marco. Vabbè, mo' incredibile. Incredibile. Cioè, incredibile, brutto? No, proprio brutto? Strano, no, in realtà non era male. Di Marco Bellocchio. Allora, la cosa funziona così. Ti racconto questo film che è stranissimo. Sì. Praticamente. Intanto saluto agli ascoltatori, sai. Buongiorno a tutti. Anzi, buonasera a tutti. Tesoratori. Praticamente, Marco Bellocchio, che è un grandissimo regista italiano. L'ultimo film che ha fatto era Vincere. Fenomenale. Ha girato adesso questo film che si chiama Sorelle Mai. E l'ha girato dal 1999 ad oggi. Cioè? Cioè, lui ogni anno d'estate, dal 99 ad oggi, con un gruppo di lavoro nel suo paese natale che è Bobbio, si metteva lì e girava una sequenza, un episodio. Sono 4-5 episodi più o meno. E ogni estate ne faceva uno, pam pam pam. Beh, seguendo, dovrebbero essere di più. Sì, alcuni anni saltava, però il punto è che seguiva sempre gli stessi personaggi. C'è una bambina che ha un'età nel 99, è sempre la stessa attrice che fa quel personaggio lungo tutti gli anni. Quindi segue tutta la crescita delle persone e l'evolversi di una storia nel corso appunto degli accidenti. Anni. Accidenti, mai fatto una cosa del genere? Diciamo, con questa metodicità, no. C'è Tarnation, che è un film incredibile di una persona che ha ripreso la sua vita, però tutta la sua vita ripresa, fotografata con i Super 8, con i VHS, ed ha una vita questo qua pazzesca. Vabbè, insomma, una cosa veramente, un esperimento assurdo. È un americano questo di Tarnation, però come lo fa Bellocchio, cioè una storia di finzione riprendendo altre persone che continuano a fare i loro personaggi, beh, è una cosa senza precedenti. E ogni tanto si inseriscono degli attori noti, ci sta Donatella Finocchiaro e Alvaro Orvager, che si inseriscono verso gli ultimi episodi e dove fanno delle... non c'è Alvaro Orvager ultimamente. E fanno delle parti chiaramente secondarie, non fanno le parti primarie, perché le parti primarie sono quasi tutti familiari di Marco Bellocchio. Infatti sono tutti Bellocchio di cognome, sono quasi tutti i suoi familiari, perché è una storia di famiglia in cui lui è coinvolto, la sua famiglia. Insomma, è una cosa veramente strana. Al limite dello sperimentale, c'è una trama, non è che è, però molto particolare, devo dire, a me mi ha impressionato molto, molto bella. Addirittura impressionato. Sì, perché è una cosa veramente strana e inusuale. Poi Bellocchio è talmente bravo, talmente forte, che comunque tutto questo ha un senso. È un film che poi ha un grosso senso. E non vi direi mai, è un capolavoro, non vi direi mai. Però è strano e da vedere. Di corsi a vedere, sì, però è stata un'esperienza veramente forte. Molto forte. Quando uscirà? Allora, Sorelle Mai, se non sbaglio, esce questa settimana. No, settimana prossima. Senti, invece, che mi dici del film dei quelli che fanno la rapina al furgone col Viagra? A me un po' mi ha deluso. Holy Water. Parliamo di Holy Water, che è un film. L'idea inglese. È molto carina. Ah, l'idea è sicuramente molto carina. Ed è anche un'idea. Questo è un film inglese, è un'idea molto italiana. Cioè, dei cialtroni che tentano la grande impresa, no? È il paradigma dei soliti ignoti, proprio quello, preciso. Racconta, per chi non lo sa, di questo gruppo di persone in un paese dell'Irlanda del Nord, che è il paese dove viene prodotto il Viagra, che sequestra un camioncino di Viagra con l'idea poi di venderlo, di rivenderlo, di farci soldi. Però sono talmente cialtroni che non riescono a smerciarlo, non sanno che farci. L'azienda farmaceutica manda degli investigatori americani fortissimi, con tutte strumentazioni tecnologiche da morire, quando loro stanno con le capre, ovvio, qui sono proprio, e si trovano a dover nascondere questo carico, che gli finisce in un pozzo, nel pozzo che rifornisce la città. Quindi tutti quanti si bevono l'acqua al Viagra. E quindi tutti. Esatto, tutti alla grande. L'idea è geniale. L'idea è fortissima. Secondo me la realizzazione molto meno. È un filmetto. Io volevo andarla a vedere e mi hai rovinato. Ecco, lo sapevo. Dovrò uscire al primo tempo. Mannaggia. Ce ne fossero di più come te. Mandi avanti una buona parte del cinema. Lo so. Ma perché poi lui esce, rientra subito, compra un altro biglietto. Vado a vedere un altro. Certo. Mannaggia, io ci avevo puntato. Ci Mamma avevo puntato su questa cosa. Mi vado a fare quattro grasse risate e non faccio da anni. Invece, ti dico un film che mi ha veramente stupito. Ti vai a Tutti fare quattro. Pazzi per Mary, l'ultimo film che mi ha fatto ridere, pensa. Che era un gran film. E il pezzo quello della gelatina. Sono Scusa, ecco, no, l'ultimo film che caracollato per terra. Mi ha fatto morire da ridere. L'altro stato... ieri, proprio. Una notte da leoni è stato l'ultimo film che mi ha fatto veramente morire da ridere. A te no. A me no. Invece devo dire, ha fatto sorridere. Oggi ho visto un altro film stamattina che esce però settimana prossima, però anticipo veramente, che veramente sono uscito che ho detto finalmente un bel film. Sì. Come quando io dico ogni 6-7 anni un bel disco. No, non così, non così tanto, però perché è una commediola italiana, però una commedia italiana dove si ride. No, un disco italiano, esatto, di musica italiana buona. Esatto. B, recitano bene. C, tutto il film gira. Tu alla fine dice: bello questo film. E che film è? Amici miei. No, non è quello. Non è quello, non è quello. E nessuno mi può giudicare. Tutti quanti avremmo. Esatto, tutti quanti avremmo detto: ma che è sto fregnaccione? Che cos'è questa cosa? Anche perché io personalmente è sulla scia, chiaramente, l'avrete capito, di Notte prima degli esami, Questa notte ancora nostra. Insomma, ne stanno facendo, no? Che ma è già uscito un film del genere, Notte prima degli esami. Sì, Notte prima degli esami, è uscito. Anche il seguito. E beh, rifanno Notte prima degli esami. No, questo è sulla scia di. Come si chiama questo film? Nessuno mi può giudicare. Nessuno mi può giudicare. Che riprendono nomi di canzoni. Sotto titolo La verità mi fa male. Canta Caterina Caselli. Che riprendono canzoni anni 60, 70, 80. Quando poi queste canzoni alle volte non ci sono proprio nel film. Comunque c'entrano poco con la trama. In questo caso c'è la canzone. A un certo punto lo canta Paola Cortellesi, che è la protagonista del film. Però il tratto, ed è fatto dallo stesso team creativo che poi ha fatto quegli altri, cioè il team Fausto Brizzi, Marco Martani, Massimiliano Bruno. Stavolta Massimiliano Bruno scrive e dirige. La vera novità rispetto al passato è qual è? Che è divertente, questo funziona, questo è fatto proprio bene. È divertentissimo. Ed è proprio carino, è un bel film che non presenta nessuna novità. Cioè è il classico canovaccio all'italiana. Cosa racconta? Di Paola Cortellesi, moglie annoiata e ricchissima di questo magnate dei cessi che lavora per questa propria società che si chiama Chicago. Già questo è geniale, no? All'inizio del film il magnate dei cessi muore in un incidente. Subito, nella seconda scena, muore in un incidente. E lei rimane la vedova e scopre che, come sempre accade in questi casi, che era pieno dei debiti fino al collo. E lei quindi eredita tutti i debiti. Si trova con centinaia di migliaia di euro di debiti che non sa come sanare. Poi lei figura di una classica signora che non ha mai lavorato nella sua vita, non sa che fare, c'ha il figlio a carico che insomma rischia di perderlo. E quindi finirà in una borgata a fare la escort, perché ha 4 mesi di tempo per raccogliere una cifra tale che dovrebbe guadagnare 1000 euro al giorno. E l'unico lavoro che le può far guadagnare 1000 euro al giorno è fare la escort. Però chiaramente lei è quanto di più lontano ci sia dal mondo delle escort. E questo fatto che, grazie ad un'altra escort che lei viene a conoscere, molto brava, molto inserita, entra lentamente in questo meccanismo e prima comincia con i clienti quelli proprio bambacioni. Poi diventa un pochino più brava, gli imprenditori, le cose. Alla fine arriva ai politici e poi arriva al giubileo, che è le feste dei politici in barca con 1000 escort, tra cui riesce ad esserci anche lei. Mi ricorda sempre qualcuno. Esatto, più o meno, insomma, non è una storia nuovissima. E in tutto questo, chiaramente, poi lei vive in un posto di borgata completamente lontano da dove stava prima e scoprirà i veri valori della vita autentica a contatto col popolo. Però è divertente, no? Insomma, è veramente fa ridere. Molto ben fatto. Ha un sacco di risate, sul serio, no? Rimasto veramente. Ma non è solo la risata, che è una cosa fondamentale. Tu sei un po' sempliciotto sulla risata, secondo me. Cioè, proprio quelli. Ci sono le torte in faccia, un sacco di scorreggio. Ci sono. È molto divertente. Ma oltre alla risata, che in questi film è fondamentale, per carità, è anche veramente un film dove la gente recita bene. Paola Cortellesi, che è bravissima, che ha fatto già un sacco di film, qua finalmente funziona alla grande. Funziona alla grande Raul Bova. Esagerato. Funziona. C'è un cast di grandissimi comprimari. C'è Rocco Papaleo che fa uno straordinario caratterista. Ci sono un sacco di caratteristi, li riconoscerete, stranieri. Questi qui che fanno gli extracomunitari nei film italiani sono sempre gli stessi, perché sono pochi. Sono bravissimi e ci stanno pure qua, perché molto si gioca sugli extracomunitari. C'è Lillo di Lillo e Greg, che è un grandissimo. Uno dei grandi attori della storia. Guarda, c'ha un repertorio di facce in questo film fenomenali. Per cui esce settimana prossima, no, ne parleremo anche più diffusamente settimana prossima, però così, visto stamattina mi ha veramente positivamente stupito per che veramente finalmente si aria, si respira. Prego. Invece fino a film di questa settimana, abbiamo detto di Holy Water, ma esce anche un film molto molto particolare, che è Rango. Rango l'avevamo anticipato nelle scorse settimane. È un lungometraggio di animazione. Ha avuto una storia stranissima Rango, perché non viene dai grandi studi di animazione, cioè non viene dalla Pixar, non viene dalla Disney, Pixar e Disney è la stessa cosa, non viene dalla DreamWorks, non viene dalla che altro dire, ce n'era un'altra, la Blue Sky, ma viene da Gore Verbinski, cioè da una persona che ha deciso adesso mi metto e faccio un film d'animazione. Gore Verbinski chi è? È un regista americano noto per aver fatto il remake americano di The Ring, che è molto bello, e la saga dei Pirati dei Caraibi. Fatti questi film di grandissimo incasso, ha ottenuto un potere tale da dire adesso basta, voglio fare questo progetto folle di fare un film d'animazione con gente che l'animazione non l'ha mai fatta, senza rivolgermi alle grandi industrie delle animazioni, per fare un film strano, particolare, un film che gli altri non farebbero mai. Ed è uscito Rango, la storia stranissima di questo camaleonte che vive in un come in un acquario come quello per le tartarughine, e che in un trasloco in macchina viene sballottato fuori dalla macchina e finisce nel deserto tra America e Messico. E come spesso succede in molti racconti della mitologia americana, nel deserto ci sono solo due cose, nei racconti, nei film americani, solo due cose possono succedere nel deserto. C'è il deserto moderno, che è quello psichedelico, dove vai, ti perdi, incontri te stesso, ci sono le allucinazioni e può succedere di tutto, e ti perdi e ti trovi te stesso, trovi la tua vera essenza. E c'è il deserto classico, quello del western, quello della zona di frontiera. In Rango ci sono entrambe le cose. Lui, che è un camaleonte attore, che si crede un attore, finisce, dopo un percorso assurdo all'interno di questo deserto che rischia di farlo impazzire, in un villaggio western. E siccome è un camaleonte attore, diventa un personaggio del west. Chiaramente un west Sergio Leone, perché il west più moderno che c'è è quello, per cui lui si cala in questo personaggio e incredibilmente poi nel corso della storia diventerà un personaggio dei film di Sergio Leone, e il mondo intorno a lui diventerà simile ai film di Sergio Leone. Chiaramente non, l'ispirazione di Leone non è l'unica, è la più forte e la più evidente, ma sotto ci sta anche un molto Chinatown di Polanski, c'è molto del western classico, c'è anche, direi, Django. C'è anche Django, certo. Il buon Giuliano Gemma. L'uomo che gira con la bara nel deserto. No, non è Giuliano Gemma, attenzione. No, è Franco Nero. Su questi film. Ed è un cartone molto strano, perché nonostante come un po' tutti i cartoni ammicchi a un pubblico anche di ragazzi, bambini, in realtà poi è molto molto adulto anche nelle tematiche trattate. È un cartone dove non si fa altro che parlare di morire, di morte. È un cartone nel quale non ci sono animaletti carini e bellini, ma come nei film di Sergio Leone c'è gente brutta e sporca. Cioè nel West sono brutti e sporchi, sono pieni di polvere e hanno il fango dietro le unghie. Qui ci sono, chiaramente sono personaggi animali antropomorfi, sono, cioè, un coniglio senza un orecchio, una gallina con una freccia che gli penetra l'occhio. È molto carino, molto divertente e molto molto particolare. Se siete amanti di questo tipo di esperimenti, di cartoni strani della nuova leva americana, ve lo consiglio senz'altro. Ci fermiamo tra poco. Doppiato da Johnny Depp, tra l'altro. Vai. Prego, stiamo parlando di cinema con Gabriele Vasquez e anche con Livio, che tenta mestamente di intrufolarsi nelle cose altre. Io tento come posso di estrometterlo, ma taccio. Alle volte non ci riesco. Allora, un altro film di cui parlavo giusto con Livio adesso, che esce questa settimana, e questo sì, questa è veramente una delusione. Cioè, diciamo, no? Un po' di settimane fa parlavamo di Robert De Niro, che non si sa perché sceglie i film uno peggio dell'altro, quali fare, eh? Ma cosa stai mettendo? Prego. Dicevo, sentiamo. Aspetta. Che tragedia, il vecchio Dermot. Vecchio? Ma se Dermot aveva la metà dei miei anni. Vediamo se riconosci questo film. E io li vedo in lingua originale. Vabbè. Vediamo dai dialoghi. Aspetta, vado. Cerco l'altro pezzo del trailer. VR. Sicura? La pubblicità non è da evitare in un caso delicato come questo. Non ha senso offrire una ricompensa senza pubblicizzarlo. Non è quello dove diceva il biglietto della svegliati Ned. È stato vergognoso, padre. Ah, questa è cosa Holy Water. È un atto assolutamente naturale tra marito e moglie. Ecco, non è stato tanto l'atto in sé quanto tutto il resto. Il resto? I grugniti. Sì, come un maiale. È una cosa naturale. Ma come, in Cocoon erano tanto contente le mogli dei protagonisti che si ringalluzzivano nella piscina. Prego. E viene anche citato Cocoon nel film. Dicevo, parlavamo un po' di settimane fa di Robert De Niro che non fa che sbagliare film, che sceglie come assurdi. Ma se c'è uno che, diciamo, dopo Robert De Niro sta andando su quella scia, è Anthony Hopkins. Anthony Hopkins che non ne imbrocca uno e fa delle scelte, ultima delle quali Il Rito, film in uscita questa settimana, categoria film di esorcismi, che ne avevamo visti. Quindi quelli che dovrebbero, quelli che escono ad agosto. Esatto, questo qui invece comincia a uscire adesso. Anzi, questa è una sottocategoria dei film di esorcismi. È film di esorcismi ambientati a Roma. Questo è tutto girato a Roma. Mamma mia. Sì, non ti dico, quelle solite delicatezze che hanno gli americani nei nostri confronti. E allora, innanzitutto a me mi incuriosisce da morire il fatto che in America sono molti pochi i cattolici. Cioè, i cristiani sono tanti, ma i cattolici in fondo non sono tanti. Cioè, la maggioranza professa altre confessioni. Però nel cinema americano c'è solo il cattolicesimo. Cioè, quando si deve parlare di religione, c'è solo ed esclusivamente il cattolicesimo. Questo perché probabilmente è un tipo di religione, per come è organizzata, un tipo di religione più drammaturgica, tutte quelle cose di grande effetto, la gerarchia, le cose potenti, i cardinali, delle regole inflessibili, il latino. Poi in questi film americani i preti parlano sempre continuamente in latino, e soprattutto ha il concetto dell'esorcismo, che è una cosa che agli americani piace tantissimo. In questo film, da quel che si vede nel film, a Roma si praticano esorcismi così tutti i giorni. Mamme che portano le figlie dai preti per farle esorcizzare così proprio. Come niente, capito? E soprattutto i preti lo fanno, immagino. Sì, ma così, ma in casa loro, capito? Andiamo di là. Facciamo la punturina. Gente che sale sull'autobus per andare a fare l'esorcismo. Che già in sé la cosa è straordinaria. Il film racconta di questo prete giovane con un po' di dubbi, che non è proprio sicuro della propria fede. Mi ricorda un altro film questo. Uno un po' più famoso. Comunque, vabbè, ci succede spesso mentre ne parliamo di avere sono sicuro che ti stai sbagliando. Questo prete giovane che ha un po' di dubbi di cos'è, che allora gli americani dicono: vai a Roma perché lì troverai la tua fede. Signori. Va a fare questo corso di, giuro, non è vero, corso di esorcismo al Vaticano, tenuto da un frate cappuccino, con tutte slide, PowerPoint, tutta roba informatica, ma lui è proprio decoccio, questo prete giovane. Cioè, proprio no, ma a ogni cosa che gli dicono sugli esorcismi lui risponde: ma no, questo probabilmente è una patologia mentale, ma no, questo è dovuto a quest'altro, insomma, che non ci crede. Allora questo frate cappuccino, che però intravede il talento, intravede l'intelligenza di questo prete, gli dice: vai da padre Lucas, ti farà vedere lui. Padre Lucas, che è Anthony Hopkins, è questo vecchio prete che vive in una baraccaccia a Roma, che poi in realtà non, cioè loro spacciano per Roma, ma è palesemente un paesino nei dintorni di Roma, perché Roma non ha quell'architettura. Insomma, che vive in questa baraccaccia di paese. Poi parla pure italiano Anthony Hopkins nel film. E vabbè, siamo al cinema. Cioè, no, beh, io l'ho visto in originale. Ah, in originale, parla in italiano. Parla in italiano. Ah, lo so, perché è venuto stato infatti, aveva un mese e mezzo a casa mia. Aveva la tua cadenza, aveva un po' quel modo di parlare. Una pietra che lotola raccoglie mai sugo. E insomma, in questa baraccaccia così, tra le pentole, i fornelli e le sedie di paglia, Anthony Hopkins pratica esorcismi così. Così, e gradualmente lo introduce questo giovane prete al mondo del diavolo e della possessione, del demonio. E chiaramente poi nel film ci sarà la svolta, come sapete, come potete immaginare, uno dei due verrà posseduto anch'egli. Ma va. Pure questa è una novità. Ma novità. E poi si butta dalla finestra per uccidere. No, questo non accade, fortunatamente. Oh, non sta per uscire Una notte da leone 2. E a te il primo non ti è piaciuto, ma perché? Non mi è piaciuto. Ma c'è un... proprio non ti ha fatto ridere? No, no, niente. Invece è stato un grandissimo successo. Cioè, insomma, è piaciuto moltissimo a molte persone, che non è una cosa usuale. E il 27 maggio uscirà il secondo episodio. Io devo dire, non ho molte aspettative per il secondo episodio. Io penso che Una notte da leoni sia stato una felice eccezione, perché comunque il team creativo che è alla sua base prima non aveva fatto niente di così devastante, insomma, e nulla fa credere che possa ripetersi l'esplosione. Però chiaramente la speranza è questa. Stranissimo, esce, adesso che guardo il giorno dell'uscita di Una notte da leoni, esce lo stesso giorno di un altro film atteso come pochi, che è il... Se lo vuoi sapere, non le è neanche venuto dentro. Detto, ci credi, vero? Ah sì, certo che ci credi. Perché a lei lo sperma fa schifo. Sono 32,50. Che bei momenti radiofonici. Vediamo il trailer di Una notte da leoni. Qui dice di lavorare di squadra. Chi vuol farmi da spalla? Andiamo avanti. Vediamo. Ci tengo le mie cose. E mi fanno un sacco di complimenti. E poi non è un borsello, si chiama Satchel. Ma non è Una notte da leoni. C'era anche Indiana Jones. Come no? Sì, è il mio bisnonno. Sì? Sì. È il trailer, c'è scritto. Anche noi. Davvero. Andiamo avanti. Trailer. Lungo, questo è chiaramente trailer. Il doppiatore di Zach Galifianakis. Si chiama Super Trailer questo. Alan, sei sicuro che sei in grado di occuparti del bambino? Prego. Dicevo, curiosamente notavo che il 27 maggio, il giorno che uscirà Una notte da leoni 2, è anche il giorno che esce un altro film attesissimo. Qual è? Che è This Must Be The Place. Che voi direte, e che è? E cos'è? È il nuovo film di Paolo Sorrentino, girato in America con Sean Penn. Molto molto interessante. Si sanno poche cose, se non che è la storia di una rockstar anni 80 che si è ritirato. È molto molto veramente molto molto interessante sapere che farà questo regista italiano, che ha avuto un successo all'estero fortissimo, anche superiore a quello di Garrone, perché come se avete visto i film di Paolo Sorrentino, Il Divo, La conseguenza dell'amore, L'uomo in più, gira molto all'americana lui, quindi è normale che piaccia molto agli americani. E fare un film con Sean Penn, benché a produzione italiana, però potete immaginarvi che un film fatto con Sean Penn e Frances McDormand, che è la moglie dei fratelli di uno dei due dei fratelli Coen, avrà una distribuzione potente e seria anche all'estero, può essere un'occasione non male, non male veramente. Senti, questo Super 8 di cui tanto si parla, di J.J. Abrams, è uscito ora un trailer molto lungo. Allora, questo Super 8 è il nuovo film di J.J. Abrams. J.J. Abrams è Lost, Star Trek e Cloverfield. Ha fatto questo film che, come suo solito, non deve far sapere niente, si sapeva poco e nulla. Oggi, anzi ieri, è uscito il trailer, quello molto lungo, dove finalmente si capisce non solo bene di che parlerà il film, che si sa già che parla di un alieno, parla di un alieno arrivato sulla Terra, ma si capisce che tipo di film sarà, cioè il tono del film. Ed è un film nello stile dei film Amblin Entertainment di Spielberg. Quali erano? Erano E.T. l'extraterrestre, Incontri ravvicinati. Vuole avere quel tipo di respiro, quel tipo di ambientazione. Da te è ambientato nel 79, quindi questo qui lo aiuta senz'altro, ma anche quel tipo di ottica sulle cose. Quindi a me viene da dire alieni buoni, però è tutta da vedere. Dal trailer non sembra, però insomma, tutto da vedere. Vediamo. Dialoghi, profondo. È una gran scrittura. Però è bello. Secondo me viene bene. Beh, io fino adesso dei J.J. Abrams cose che non mi piacessero non le ho viste. Confermo. Ho uno che è riuscito a far ripartire il franchising di Star Trek senza eliminare quello che era già successo in quel modo. Beh, tanto buono mi sa che questo alieno non lo è. Infatti anche io direi di no. Da però... come sfonda la porta per, per voler uscire. L'ultimo alieno che ha fatto era Godzilla praticamente in Cloverfield. C'è Spielberg dietro, non lo so. Vabbè, prego. Insomma, altro film dopo insomma il rito che veramente sconsiglio. Anche agli amanti dell'horror veramente sconsiglio il rito. Altro film che esce questa settimana italiano, grande delusione, veramente grande delusione, è Tutti al mare. Anzi, direi che Tutti al mare è una doppia delusione. No, quello che è il remake del Casotto? Mezzo, cioè io. No. Allora, è una doppia delusione, perché uno, delusione perché da quel che sembra dai cartelloni, dalla pubblicità, un film che si chiama Tutto al mare, con cui c'è Gigi Proietti, le cose, non è un film di quel tipo, non è un film commedia spensierata, ci facciamo quattro risate. No, non lo è, è un film che vuole essere molto impegnato. Ma veramente? Per chi invece si ricorda Il Casotto e quindi magari appunto sa, ah, un film remake del Casotto, altra delusione cocente, perché veramente non ci siamo proprio. Ma come, Gomeri, camicia a maniche corte. Esatto, assolutamente non siamo da quelle parti. Allora, perché il remake del Casotto? Cioè, in realtà, perché il remake un po' sì, un po' no del Casotto? In realtà, è un film di Matteo Cerami, figlio di Vincenzo Cerami, sceneggiatore di Il Casotto. Il Casotto fu la sua prima grande sceneggiatura. Poi Vincenzo Cerami è diventato molto famoso perché è stato lo sceneggiatore di Benigni per tanti anni, fino anche alla Vita è bella, e quindi è diventato molto molto famoso per quello. Però aveva scritto Il Casotto. Questo qui, la parentela che ha questo Tutti al mare con Casotto è che si svolge in uno stabilimento balneare d'estate ed è tutta una giornata in questo stabilimento con tanti personaggi. E poi ci sta Gigi Proietti, che stava nel Casotto, e Ninetto Davoli anche, cioè, che pure c'era. Fine. Le parentele sono finite, le parentele col film, finite assolutamente. Questo qua è un film che presenta una varia umanità che dovrebbe rispecchiare il paese di oggi, quindi tra extracomunitari, gente di destra, gente di sinistra, a un certo punto ci sarà anche uno sbarco di clandestini. Ma ciao! Vuole essere divertente. Del logo comune. Vuole essere divertente e non lo è. E poi c'è una cosa che... ti giuro, lo dico con il massimo rispetto per gli autori del film, ma mi ha mandato in bestia proprio ideologicamente. E davvero lo dico con rispetto, però secondo me proprio non si fa. Questo qui è un film in cui ad un certo punto, all'inizio, ti faccio degli esempi, arriva un cinese che è quello che nello stabilimento fa i massaggi, no? Ed è tutto felice. Allora il gestore dello stabilimento gli dice: ma perché sei così felice? E lui fa: è il capodanno cinese oggi. E lì ironia sul capodanno cinese. Ma il capodanno cinese è a gennaio-febbraio, cioè oscilla tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. E quindi già non ha senso che sia questa cosa. C'è una ragazza polacca che vuole sposare, tipica cosa, la polacca che vuole sposare l'italiano per poter tenere. Ma la Polonia è nell'Unione Europea da una vita. Non c'è bisogno di fare queste cose. Ci sta il nostalgico dell'era fascista che racconta quando andammo in Abissinia a prendere le cose, ma dovrebbe avere 102 anni, mi sono fatto il conto, dovrebbe avere 102 anni e non li ha. Ci sono a un certo punto una scena in cui due lesbiche, una delle due lesbiche prende l'altra, la mette sul pattino, spinge il pattino fuori in alto mare per confessargli una cosa. Ma nei controcampi, cioè quando si inquadrano due persone che dialogano, dietro una delle due si vede la riva a 2 metri. Ma sta la riva lì a 2 metri proprio. No. Con le onde. Allora, lo dico con rispetto perché sono sicuro che uno sceneggiatore come Vincenzo Cerami, una persona di un'esperienza che non ti dico nemmeno, e una produzione di questo livello, ci sono Gigi Proietti, Libero di Rienzo, Montanari, Libano, c'è un sacco, Anna Bonaiuto, un sacco di attori grandissimi, c'è anche Mastandrea a un certo punto. Di certo loro sanno che queste cose non sono così. Cioè, è chiaro, non è che può sfuggire questa cosa, non è che sono cretini. Ma secondo me la scelta di fare un film oggi di un esordiente, perché Matteo Cerami, il figlio, è un esordiente, che è un film neanche degli anni 60, gli anni 60 non era molto moderna, è un film degli anni 50, come mentalità, come scrittura, come rapporti tra i personaggi e soprattutto ancora più grave come idea di come si racconta la realtà, il rapporto che questo film ha con l'attualità, col presente, è una cosa da anni 50. Secondo me è inaccettabile. Cioè, una cosa che non si deve fare. Ma ho mai sentito parlare così. Ha sbattuto i pugni sul tavolo. Morta. Una vergogna. e poi niente poco di meno qui. Non paghi i critici per parlare bene del film, cioè io non lo so, non offri i buffet, ecco perché ne parli male secondo me. Guarda, non ti ho offerto il buffet, una vergogna, non ti ha dato neanche qualche gadget, non c'è un gadget, non niente c'è proprio. Vabbè, torniamo alle nostre cose, parliamo di altri film, abbiamo pochissimi minuti, 6 minuti, ma questi di quelli della settimana sono finiti. Allora vediamo Box Office, Manuale d'Amore Box 3. Box Office, Manuale d'Amore 3, disastro. Disastro Manuale d'Amore 3. Sì. Disastro relativo, nel senso che per essere un bel film, buco, allora, è la terza settimana che è primo in classifica, per cui uno potrebbe dire è andato bene, ma in realtà no, per essere non c'è nient'altro. Esatto. E per essere un film, terzo film di un franchising molto importante, con Robert De Niro, quindi insomma ci si è speso con... Poi sicuramente pubblicità ne ho vista, esatto, in televisione. Poi, alla nausea. Chiariamoci Robert sicuramente... De Niro è venuto a fare pubblicità pure a casa mia. Si è affacciato dal balcone. Sicuramente rientrano alla grande, perché poi se c'è Robert De Niro il film viene venduto all'estero, per cui non sarà un problema rientrare di questo film. E non, insomma, vabbè, non sarà se un incidente. Chi se lo compra più il film di De Niro, dai. No, ma all'estero si vende, no? Questo guarda, secondo me non avranno problemi a rientrare, non è quello il punto. Né sarà un buco, cioè Giovanni Veronesi è un regista che incassa tantissimo, uno più uno meno non è un problema. C'è da registrare, invece, quello che secondo me è importante da registrare è il crollo di una formula che fino... Cioè, l'episodio precedente, Manuale d'Amore 2, aveva fatto al primo weekend 5-6 milioni. Una cifra pazzesca. Questo qui al primo weekend 2 milioni e 3. Cioè, un buco totale. Quindi tu dici che il film di genere, cioè questo tipo di film, come film cinepanettone, eccetera, stanno andando... No, non dico questa cosa così grossa, non lo dico. Però secondo aspetta, me, però, questo qui... a Natale il cinepanettone non è andato bene. Però, sì, non è andato... No, in realtà è andato bene e non è andato benissimo. Però ci sono state diverse annate in cui era a questo livello. Per cui, insomma, non è una cosa... Io mi sembra prematuro parlare di la fine di questa categoria di film. Io dico che sicuramente il modo in cui è stato scelto di orchestrare Manuale d'Amore 3, pur avendo, ripeto, una carta da 90 come Robert De Niro, che abbiamo detto non è che abbia fatto chissà che, però la curiosità di andarlo a vedere penso sia grande in tutti. Era sicuramente una carta da giocarsi, eppure è andato malissimo. Cioè, io non lo so, mi viene da dire che c'è stata una saturazione negli ultimi mesi, proprio quasi di quest'anno, di questa categoria di film, che ha fatto sì che scemasse l'interesse. Un gelido inverno ha fatto 239.000 euro, cioè zero, sì, in tre, vabbè, settimane. 34 schermi, Porello. Però era un bel film candidato a un sacco di Oscar, non ha vinto praticamente niente, però era un sacco di candidature. Invece sento che va molto bene, ne sono molto lieto, il Cigno Nero che ha vinto Oscar miglior attrice non protagonista, protagonista, insomma, che ha dato il film di Darren Aronofsky con Natalie Portman, sta andando bene. E poi sento anche, io sono in contatto con la gente, no? La gente sono in contatto con, sento che piace, sono un sacco. Scusa, ma l'hai visto Amici miei come tutto ebbe inizio? Dovrei andare lunedì, sono molto spaventato. Molto spaventato. Mamma mia. Mi immolerò per voi, prenderò questa pallottola per voi. E perché sotto il vestito niente 2? L'ultima sfida? Sfilata, l'ultima sfilata. Sì. L'ultima sfilata. Io leggo troppo veloce. Sì, mi ha lasciato allibito. E quando vado al cinema ci sono i poster, anche quelli, i cartoni. Quando ho visto sotto il vestito niente 2 sono fermato, ho smesso di camminare e sono rimasto a guardarlo. Che pensando, poi dei vanzina, sto bene? Lo sto vedendo sul serio. Da veramente, insomma, mi sembra pure questo, mi sembra un esperimento. Anche perché i Vanzina, devo dirlo, hanno sbagliato tutti i remake dei loro propri film. Hanno fatto il remake di Eccezionale Veramente, il remake della Mandragata, vabbè, che era un film del padre, Febbre da Cavallo, però hanno rifatto il Monnezza, che è stata una cosa, una debacle terribile. Per cui, insomma, faranno un remake del remake adesso. un'idea geniale, che gli ho dato, mamma mia, perle così. Vabbè, comunque film interessanti in queste settimane ce n'è poche, perché poi uscirà Dylan Dog, No, pure quello che paura. No, in realtà sì, c'è un momento in cui non usciranno molti film interessanti perché devono ancora smaltire un sacco di cose grosse, che tipo il discorso del Re, il Cigno Nero, il Grinta, che comunque hanno subito l'onda lunga dei, degli Oscar e li lasciano un po' smaltire, quindi ci sarà un momento di stanca. In attesa di Boris. Poi. Il primo aprile, la sera di Boris, il film. Molto, molto atteso. Vabbè, ce ne possiamo andare senza un vero perché. Perché è arrivato sì. Margus. Ah, ricordiamo che l'8 febbraio, marzo, aprile. L'8 aprile esce Faster. È vero. Quindi ispirato alla vera vita. Alla vita mia. Ah, no. Con Dwayne Johnson, che è stato scelto per interpretare te, perché per la mole. Esatto, ha dovuto fare anche come De Niro per Cape Fear, ha dovuto prendere peso in muscoli per essere a livello. Si è rasato a zero, ha fatto la boccia e ha preso peso in muscoli. Ghost Hunter? Non l'hai visto? No, ma è una serie TV, Ghost Hunter. Ah, questa è una serie TV. Sì. Basta, perdi i colpi. Hai ragione. Quindi mi tendi questi tranelli. No, io... per vedere se stai attento. Esatto, sarei di... Sei attento. Sempre tentato di rispondere. Sì, certo, come sempre, capolavoro. Non abbiamo dato spazio ai messaggi. Gravissimo, gravissimo. Mia figlia di 4 anni lo può vedere? Cosa? Chissà cosa, Rango, no? Rango non credo. Cioè, forse non gli piace. 20:37, parlavo proprio di Rango. Sì, credo. Può vederlo, ma non le piace, secondo me. Cigno Nero, il film con la Cortellesi, come si chiama? Non ti azzardare ad andarci senza di me. Non so chi sia, però. Con chi devi andarci? Ma no, io già ho visto poi. Non so allora, chi sia. Livio. Forse è Livio. Non so. Piccola Cortellesi, comunque si chiama Nessuno mi può giudicare. No, non sembra inviato a me. Poi, comunque, ma è vero io che poi non ho aperto neanche bocca mentre lui parlava del film della Cortellesi. È vero che deve uscire Ghostbusters 3? Ah, non si sa, perché continuano a dire sì, no. Io a un certo punto, un anno fa, a settembre di un anno fa, sentii parlare Ivan Reitman, che è il regista, che disse sì, è ufficiale, lo faremo. Ora pare di no. Boh. Ma dal terremoto del Giappone, quanto è possibile che esca fuori Godzilla? E il governo non ce lo dice. Ultimamente avevo letto che Bill Murray ha detto di aver finalmente iniziato a leggere il copione. Sì, che Bill Murray è un matto. Sì. Ma no, ma lui è un po' sapiano, non gliene frega niente. No, ma niente. Non si fa trovare. Lui, l'unico modo per raggiungerlo è una segreteria telefonica che lui non si sa quando la controlla. È l'unico contatto col mondo di Hollywood. In realtà no, questo film non lo vuole fare per nulla. Prima voleva fare il fantasma. Ha detto rientro solo come fantasma, se no non lo faccio. Adesso pare che manca letto la sceneggiatura, insomma. Poi mi chiedono, hai per caso visto il film di Yataman? Sì, ed è un film incredibile, veditelo perché è assurdo, cioè è tutto quello che sicuramente non ti aspetti, è veramente strano, quindi veditelo ma con spirito da... Poi chiedevano di ripetere il Holy Water in due parole, ma in due parole carino niente di che, da non aspettarsi troppo. E poi c'era qualcuno che si pronunciava in maniera molto negativa sul Cigno Nero, che io ho appena detto, ho piaciuto un sacco, invece subito è arrivato un messaggio... schifato. Io anche nel mio piccolo ho trattenuto le lacrime a stento durante il Cigno Nero. Oggi ho visto il secondo trailer di Super 8. Delusione, sembra la solita Spielbergata. Che ne pensate? Non si può dire una cosa. Secondo me, se è una Spielbergata, a me piace. Magari, almeno magari ad averne di quel cinema degli anni 80 e faceva incassi e contenuto. Il cinema degli anni 80. Ah, la musica degli anni 70. All'espressionismo tedesco. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì per quel che mi riguarda. Grazie Livio, grazie Vasquez e ricordatevi sempre che una pietra che rotola non è colpa sua. A lunedì. Ciao. Salutate. Ciao.